La Anthony Perkins Productions presenta A Rebours. Marginali d'ogni tempo e d'ogni arte, o quasi. À rebours. Bentornati all'ascolto di A Rebours, marginali dell'arte in mezz'ora. Se mi state ascoltando, vuol dire che è già andato nella rete il pilota di questa trasmissione dedicato a Dino Campana. E questa è la prima puntata che a questo punto dovrebbe inaugurare una serie ogni due mercoledì, mentre invece il mercoledì successivo a Rebours dovrebbe andare in rete un episodio di Ulisse contro tutti, che dovreste avere già ascoltato, anche quello nella forma di pilota. Non vi dirò il nome del marginale di questa volta perché lo sentirete tra poco cantare, perché questa volta si tratta di un musicista, un grande musicista. Chi vi parla, Luca, ritiene che sia il più grande cantautore italiano degli ultimi 40 anni, solo che siamo in pochi a saperlo. Mi dispiace per voi che non lo sapete, ma che forse inizierete a scoprirlo da stasera. Quello che sentiamo in sottofondo intanto invece sono i Borghesia, un gruppo di una statua che non esiste più, quindi adattissimo a un territorio come A Rebours, un gruppo jugoslavo degli anni 80, fondamentale per la new wave europea. E ora, senza misure d'attesa, come direbbe lui, il primo pezzo. Storia d'osteria, c'è chi viene e chi va via, c'è chi magna, chi s'abboffa e ride. Viaggio d'un carrozzone, era pieno di persone, t'osannati tanti amici, ben vestiti. Signori al conto, sono nati tutti via. Festa del baraccone, nella piazza c'è il pianone, ma l'attore non s'atteggia, muore. Sangue che se pretende, siamo 100, siamo 1000, chi ha sofferto mo s'imbroglia de dolore. Signori al conto, sono nati tutti via. Sangue che se pretende, e sta partaccia mo a che serve, a lasciare le cose sempre tali e quali. Storia d'osteria, c'è chi viene e chi va via, c'è chi magna, chi s'abboffa e ride. storia al conto. Sono nati tutti via. Bene, non so se qualcuno di voi è riuscito a riconoscerlo, ma questa è la voce del grande Flavio Giurato, cantautore romano che in una lunga carriera iniziata nel 78 ha però all'attivo solo 6 dischi che per chi parla sono tutti capolavoro, ma uno di più. Ed è proprio da questo disco che noi sentiremo successivamente 2 pezzi intercalati da un spezzone sonoro cinematografico che introdurrà il personaggio protagonista della seconda canzone. Mentre la prima canzone che avete ascoltato è tratta dall'esordio di Flavio, che si intitola, il disco si intitola Per futili motivi, e il pezzo, come si intuiva forse perché viene detto, era Storia di un'osteria. Nel mio cuore dal torneo di Orbetello, quando è libecciato e non si è giocato, la laguna sembrava volesse coprire il promontorio. Dopo la pioggia non si poteva continuare, tu avevi tutti i tuoi costumi ad asciugare, quando hai deciso di affidarti a una profumeria del centro. Giocatore diverso da tutti gli altri passanti, ma anche una donna alta non è mai banale, sarà per lo sguardo necessariamente superiore. Ci sono dei rapporti tra le nostre amicizie, tra Piazza Euclide e la primissima Toscana. Grazie a questo dopo cena io proverò a chiamarti. Che giri in macchina la notte, che ti telefono e nessuno mi risponde. E te che giri in macchina la notte, che ti telefono e nessuno mi risponde. credo che ci pensiamo con lo stesso interesse. E c'è un appuntamento che nessuno ha stabilito. E non c'è un obbligo, ma una buona forza di rispettarlo. E tu sei sotto il sole del turno dopo, quando il panorama si è raddolcito e il pubblico numeroso commenta la competizione. E te che giri in macchina la notte, che ti telefono e nessuno mi risponde. E te che giri in macchina la notte, che ti telefono e nessuno mi risponde. Vedi, incontrando uno come te io mi sento più vicino a lui. Credo che sarai vicino al padre il giorno del giudizio. Assolutamente. Sarai severo? Valuteremo caso per caso. E noi? Sarete perdonati. Però ricordatevi questo. State attenti. In che senso? State attenti tutti. Mi raccomando, state attenti tutti, anche voi laggiù. Sono un figlio di famiglia e ti bacio con tanta gelosia. Tu sei l'intenzione più seria, più orgogliosa. Ti stringo e sei mia. In una casa più alta e più bella di tutte quelle qui intorno. Consumiamo la nostra passione, il nostro brevissimo giorno. Prima serata di tante altre notti in grande frenesia, di farti conquista piena, riuscita, più dentro e più mia, senza il problema o il dispiacere di riuscire a capirci, dato e concesso di essere così vicini, da sentirci attaccati. I miei fatti veri te li raccontavo sempre, ed i miei pensieri li cambiavi lentamente, e le mie ragioni le negavi spesso e volentieri, e io per te l'ultimo Walter Chiari, io per te dei signori, l'ultimo degli attori, dei grandi suonatori. Se rallentare o far presto, ti ritrovo mai stanca e sempre perfetta tra le isole e il sale. Primo fuoricampo. Nel tempo ho ridotto molto i miei bisogni materiali. Mi vesto da tanti anni con abiti che mi regalano. Mi vesto sempre uguale perché non voglio avere l'imbarazzo di dover scegliere cosa mettere. Non utilizzo nemmeno più le scarpe con i lacci perché mi annoia allacciarle e nemmeno le camicie a causa di tutti quei bottoni. Devo essere subito pronto per andare a suonare, subito pronto a concentrarmi su ciò che veramente mi interessa. Di solito non mangio nulla fino alle 3 o le 4 del pomeriggio. Voglio che il mio corpo o sia impegnato a digerire o sia impegnato a suonare e creare. Voglio dare una scansione semplice al mio organismo, catalizzare le mie forze nello svolgimento di una sola azione alla volta. Anche nella vita cerco di non mescolare troppi pensieri, mi concentro sempre su una sola cosa. Mi addolora pensare che alcune persone a me vicine pensino che io abbia utilizzato male il mio talento o che avrei dovuto perseguire un po' di successo in più. Però poi diventa irrilevante, ognuno fa l'esistenza che vuole, non può dare troppo peso a ciò che pensano gli altri. Vorrei solo che stessero più rilassati. Non c'è solo Botteghino. Magari si arriva a meno persone, ma in modo più profondo. Ma non mi sento incompreso, per carità. Provvidenza è vestita come un attore americano e Marco destinato a ritornare andrà avanti. La provvidenza è vestita come un attore americano e Marco destinato a ritornare andrà avanti. Ai cavalieri crociati di Gesù Cristo amanti, fino ai cavalieri crociati di Gesù Cristo amanti, che spazzano il deserto dai nomadi perdenti, fino ai cavalieri crociati di Gesù Cristo amanti, che lasciano il deserto ai bambini. Per te Gerusalemme rossa di sangue e verde di olivi. Per te Gerusalemme rossa di sangue e verde di olivi. Per te Gerusalemme rossa di sangue e verde di olivi. Papa incoronato, il nuovo Dio che adesso apre all'Oriente. E Marco Polo il vento nel culo dei cavalli vola. E Marco Polo il vento nel culo dei cavalli vola. Terzo fuoricampo. Non me ne è fregato nulla di abbandonare la discografia. Certo, l'ho vissuto come un aggravamento della mia situazione economica, ma artisticamente o spiritualmente non ho avuto nessun peso su di me. Io ho sempre avuto problemi economici, continuamente, è il karma della mia vita. Però ho continuato a scrivere e comporre sempre, anche quando non si prospettava nemmeno la possibilità di ricorrere all'autoproduzione. Avrei continuato a farlo anche se non avessi inciso più nemmeno un disco. Ho sempre suonato tantissimo. Ho continuato a spaccarmi le mani. Bene, avete ascoltato nell'ordine Orbetello, Uno spezzone dal film La Rimpatriati di Damiano Demiani, che avrete udito la voce del grandissimo Walter Chiari, che è anche il titolo della canzone. Dopo il primo fuoricampo, il pezzo La Provvidenza, che è invece dal terzo disco di Flavio Marco Polo, disco a cui seguì poi un silenzio di ben 17 anni. I due fuoricampi, il primo e il terzo, sono tratti da un libro di Giuliano Cao su appunto Flavio, nelle poche cose scritte su questo grande musicista, e sono pensieri di Flavio Giurato stesso. Ora io vorrei farvele sentire per ore ed ore, ma il format è quello che è. Quindi dai dischi dopo di Flavio, che vi invito a riscoprire, come tutta l'opera omnia di Flavio Giurato, che trovate agevolmente in rete, ho scelto un pezzo solo perché è lunghissimo e che si intitola La Grande Distribuzione, e vi prego di fare conto del testo che della sua allegria descrive l'inquietante situazione di tutti noi ancora adesso, dopo 7 anni che questo pezzo è stato scritto e distribuito. E a me non resta che salutarvi. Ci risentiremo la prossima settimana con Ulisse contro tutti e tra 2 settimane con una nuova puntata di Arebur. Buona serata o buonanotte o buon quello che è. Mi voglio comprare una Land Rover. Passo lungo con 2 alani e girare per l'Italia, cattare. L'ho pagato 35 euro, però con il family lo pago 35 euro. Mi sa che conviene fare il gold, così lo pago 35 euro. Ah, io mi sono fatto la Summer Car. No, la Summer Car è una fregatura, scusa, quanto l'hai pagata? 35 euro? No, a quel punto mi faccio il Diamond. Lo paghi 35 euro. Però dura tutto l'anno. Donna, sei prigioniera della grande distribuzione. E mi sembri una capinera che solfeggia la situazione. Ci vediamo a Berlino alla porta di Brandeburgo. Ci vediamo a Berlino alla porta di Brandeburgo. Avranno il fuoristrada inglese, tutti avranno la Land Rover. Mi riconoscerai perché sicuramente avrò uno Slabrador al mio. Ti riconoscerò perché sicuramente avrai uno Slabrador. State lasciando il settore americano, state lasciando il settore americano, state lasciando il settore americano, state lasciando il settore americano. A zio non te lo comprare il biglietto di ritorno. Ci prendiamo una Land Rover e andiamo dal Burkina Faso fino in Sudafrica. Ci sono dei posti. Riconoscerai perché nel sempre più emotivo e sensuale giro della grande distribuzione io troverò il mio ruolo e sarò uno Slabrador al tuo quintale. Ti riconoscerò sempre più prigioniera della grande distribuzione. Tu mi sembri una capinera che solfeggia la situazione. Sempre più prigioniera della grande distribuzione. State lasciando il settore americano, state lasciando il settore americano. State lasciando il settore americano, state lasciando il settore americano. No, ci ritroveremo tutti a Berlino. alla porta di Grandesburgo. Tutti avremo le nostre Land Rover. Tutti avremo i nostri Labrador. E uscirà un articolo sul quotidiano La Famiglia col CD allegato. E no, il CD se finiscono sempre. Ma che c'era sul CD? Che c'era? Te lo ricordi? E c'era un pezzo dei Cocker Blues. Ah, sono bravi i Cocker Blues. Ma che pezzo era? Te lo ricordi? Che, come faceva? Te lo ricordi? Come faceva? Tra la nostra infelicità ed il codice a barre c'è lo stesso rapporto che lega l'amore alle volte. Se ti prendo la mano e la porto alla soglia dell'amore proibito nel deserto che ho voglia. Commovente, bellissimo. Mi ricorda un pezzo dei Bad Cocker. Ah, sono bravi i Bad Cocker. Sai quel pezzo che dicevano che erano copiato, no? Copiato il fatto del codice a barre. No, ma che copiato? Ma come faceva il pezzo dei Bad Cocker? Te lo ricordi? Come faceva? Te lo ricordi? Come faceva? Il codice a barre, tatuaggio indelebile. Io sono contrario, ma la memoria è labile. Il codice a barre, sotto la carta sterile. Io ero contrario, perché ho la carne debole e la mia voce flebile. Donna, sei prigioniera della grande distribuzione e mi sembri una capiniera che consiglia una promozione. Ci sono i CD di Alfio in promozione con la famiglia. Alfio, ma Alfio quant'anni c'ha? No, ma che stai scherzando? Ma lui gira da quando ero ragazzino io. Lui però sai che è un professionista. Lui c'aveva quel pezzo sul Boy Scout. Era commovente, bellissimo. Ma come faceva il pezzo di Alfio sul Boy Scout? Te lo ricordi? Come faceva? Te lo ricordi? Come faceva? È l'alba, è l'alba nel firmamento. È l'alba, è l'alba nel cielo spento. Che a poco si si stella, è l'alba, perché sei così bella e io sono contento di essere un boy scout, io sono contento, sarai la mia girl guide. Commovente, bellissimo, ti saluto, devo andare in banca, ho la finanziaria Pegasus. Ah, la Pegasus, un'organizzazione seria, bel risparmio. Vorrei i miei soldi. Guardi, il suo conto è prosciugato. No, grazie, non bevo. Non mi sono spiegato, il suo conto è esaurito. Ma vada da un medico! Non ha capito, nel suo conto non è rimasto neanche un euro. Neanche un euro. Oh, ti piace sta ferma? Ma lo sai quanto l'ho pagata? 900.000 lire! Donna, sei prigioniera della grande distribuzione e mi sembri una capinera che solfeggia la situazione. Sempre più prigioniera della grande distribuzione e io che ho il cuore nella notte. Annuso il vento e scopro le mie grandi rotte. Napoli, Palermo, da porto a porto, sulla passeggiata alle 7:15. Non vi darò i miei appunti, vi dirò le mie pretese. Roma dorme ancora, le sue piazze, le sue chiese. Roma dorme ancora, le sue piazze, le sue chiese. Roma dorme ancora, le sue piazze, le sue chiese. Roma dorme ancora, le sue piazze, le sue chiese. Sì, ma vedi Guido, dopo questa cosa così forte, no? Questa cosa delle 900.000 lire, no? Che poi è una cosa tua, Guido, questa cosa è 900.000 lire. Ci vorrebbe qualcosa di commovente, di bellissimo. Perché le cose io non le so, le sai. E posso averti qui con me nel vento. La luna è rossa, rossa, rossa, rossa. Se cammini si nasconde. E tu cammini ancora e si protende. E tu cammini e si nasconde dietro ai palazzi e sti cazzi. La luna è nera, nera, nera, nera. E tu sei prigioniera. Sempre più prigioniera della grande distribuzione. Tu mi sembri una capinera che solfeggia la situazione. Sempre più prigioniera della grande distribuzione. À rebours.